Un salve da Max Macchia, che vi saluta ovviamente da Radio Città Fujiko, dal blog, non so dove state ascoltando, o se state ascoltando, o siete distratti, state facendo altro, ma va bene. 451 frammenti sonori, ripeto, in compagnia di Max Macchia, e scapologia zero questa sera, dove andremo a trovare appunto che cosa? Chi si riesce a liberare? Ci riusciamo a liberare questo zero qua, che cosa può significare? Può significare uno zero in termini quantitativi, quindi magari legati al numero, una escapologia che poi diventerà 1, 2, 3, eccetera, oppure probabilmente in maniera più inquietante, forse è uno zero che ci viene a dire appunto che non c'è possibilità, una negazione, quindi lo zero usato appunto come negazione. Beh, per iniziare probabilmente partiamo forse da una negazione, che poi negazione poi a tutti gli effetti non lo è. Gireremo tra l'altro su lavori di autori tedeschi, quindi avremo così la possibilità appunto di andare e ascoltare cosa succede e cosa succedeva anche tempo addietro in Germania. Non so bene perché abbia poi fatto questa successione, cioè come si è uscita insomma in maniera tedesca, probabilmente insomma qualche cosa con l'escapologia, che però per il momento non so ancora interpretare, è successo in termini appunto di associazioni di autori che vanno da Asmund Tichens, se lo diciamo alla tedesca, fino a Klaus Schulze, così diamo anche un ulteriore omaggio al grande elettronico, grande compositore tedesco. E partendo da Asmund Tichens, quindi andando quindi a trovare quello che è un suono che evidentemente non può essere escapista, perché di fatto da 40 anni a questa parte Asmund Tichens lavora su Tichens, anzi lavora su quelle che sono delle o metronomie che danno strani effetti di falso elettropop, comunque ha influenzato alla fine degli anni 70 anche questo, e anche delle strane wave che potevano anche andare così a collimare a volte con strane perturbazioni wave più ritmiche, ecco, chiamiamole così, magari vicine a certo industrial, oppure un suono che andava a ricercare più quella sperimentazione appunto sonora legata all'elettroacustica, come alle musiche concrete che tante volte insomma sono state espresse insomma in maniera così anche magistrale da Asmund Tichens. Se pensiamo poi che Asmund Tichens fa quel trait d'union incredibile, in questo senso veramente personaggio fondamentale non soltanto della musica tedesca, perché riesce a unire quella che era la generazione della Cosmice con la Neue Deutsche Welle e con quelle che sono le sperimentazioni elettroniche degli anni 80, non soltanto quindi in Germania, ma quelle wave che vanno verso appunto le sperimentazioni di tipo industrial. Ma se appunto non toccassero quelle, sicuramente vanno a toccare delle corde del primo elettropop falso, forse in questo senso, nasce come musica sperimentale, va da sé insomma che appunto le prime faccende di synth pop non potevano essere che quello, appunto, perché musica non ancora codificate, ecco, poi per come avverrà, e forse questo collega anche a Asmund Tickens, alle sperimentazioni tout court degli anni 40, questo non essere mai così decifrabile in maniera chiara, ma avendo insomma questa capacità appunto di muoversi non in chiave postmoderna, ma anzi avendo quella linearità, quella dialettica, potremmo dire, ecco, che parte dalle prime addirittura sperimentazioni improvvisative elettroacustiche della fine degli anni 60, il nostro Asmus del 47, quindi prende già così dimestichezze con le prime strumentazioni Moog e quant'altro alla fine degli anni 60, dandosi a quelle che erano le musiche che più di una volta insomma abbiamo trattato, legate all'elettroacustica, che diventeranno poi improvvisative e elettroniche, nel vero senso della parola, anche in termini insomma di come dire storicità e storiografia delle musiche elettroniche imprescindibili, l'elettronica degli anni 70 tedeschi. Asmus Tickens tra l'altro sarà uno dei collaboratori non accreditati all'epoca, vicino molto a Moebius, che sentiremo tra l'altro dopo con una compilation curata da Asmus Tickens proprio sui lavori solisti di Moebius, e quindi fuori da Cluster con la K, Cluster con la C, e perché no anche i grandi Armonia. E andando a trovare un disegno che forse così dentro questa dialettica del tutto particolare come quella appunto del nostro tedesco può trovare una via escapica, questo Schatten on Elicht, ma che forse disegna, e forse insomma anche questo è l'intento questa sera di 451, un inizio magari senza appunto via d'uscita, che forse mettiamo insomma un punto di domanda, quindi lavoriamo anche un po' sul paradosso, forse verso la fine insomma di quest'oretta passata insieme avrà un momento effettivamente escapico. È un po' un punto di domanda, è ancora possibile averlo? Per il momento insomma sentiamoci Asmund Tickens. Gran lavoro quello di Asmund Tikkens, tra l'altro gran lavoro che fa da 40 anni il compositore tedesco, e per una buona quindicina d'anni addirittura in maniera così sconosciuta dietro le quinte, tant'è che appunto iniziando già così a manipolare strumentazioni elettroniche e ad elaborare insomma un linguaggio che come dicevo prima partirà dall'elettroacustica, dalle musiche concrete fino ad arrivare appunto all'elettronica tout court, molto molto magistrale nel vero senso della parola, nel senso che poi sarà da maestro anche per molto industrial, e quindi arriverà alla fine degli anni 70 addirittura a stampare i suoi primi lavori come solista, Asmund Tikkens, prima appunto legato più a collaborazioni che non vedevano la luce, ecco, in termini perlomeno di crediti discografici, che poi invece con appunto il primo disco del 79 fino ad arrivare ai nostri giorni, nel appunto questo disco uscito pochi mesi fa. Beh, c'è veramente una parabola che forse più una volta si sarebbe detto, non so se si usa ancora, gli addetti ai lavori conoscono appunto come trade union tra certa cosmice e certo in industrial, ma poi a ben vedere insomma una possibilità data anche da suoni, forse anche qua in filigrana si vede una specie di ulteriore possibilità, forse data a una foga, a un disegno comunque escapico che può essere anche intravisto tra le maglie insomma sonore piuttosto cupe, seppure anche con momenti così di fuga magari date da questa sorta di astrazione che ci porta un po' più in là rispetto magari allo stesso suono concreto che sta manipolando Asmund Tikkens da 40-50 anni appunto a questa parte. E Asmund Tikkens è anche colui che compila questa bella compilation Solo Works Collection 7, ovvero i 7 dischi di Moebius, morto qualche anno fa, tra l'altro collaboratore come dicevo prima, e anche una titolazione che magari andremo anche a trovare chissà di Asmund Tikkens con Moebius per un bel disco di una decina d'anni fa. Ma adesso appunto andiamo a trovare anche l'arte del compilatore per quanto riguarda i lavori di Moebius, tra alti e bassi, che comunque qua in questa compilazione veramente vivono di momenti estremamente suggestivi, se non proprio molto, molto belli, scusate insomma il termine generico, però di fatto la musica di Moebius è non un caso insomma che sia stato anche dentro Armonia, hanno quella bellezza chiaroscurale che soltanto pochi compositori hanno, e tra l'altro avendo anche quella matrice che è molto molto in filigrana per Asmund Tikkens in alcuni lavori, quel lavoro ritmico che ha informato Asmus Tikkens, come veramente tanta sperimentazione, anche perché no, legata al noise, rhythm and noise. Moebius ce lo andiamo appunto a ascoltare con questa The Tracker. Thank you. Moebius dal suo solo work, anzi più che suo dal lavoro compilativo di Asmus Tickens, e poi in mente qua il disegno, parlavo prima di Rhythm and Noise, tutte quelle strane frequentazioni, ecco, tra ritmi e dance, ma molto così, per dirla insomma velocemente, molto storte, che vanno a impattare con un certo noise. Moebius d'altronde è stato quasi metronomico dentro la Cosmic Music, e se vengono poi tra l'altro ricordato giustamente anche tanto i Kraftwerk come i come dire, pionieri del suono ritmico della danza. Beh, se dobbiamo parlare appunto di danza, che poi viene anche codificata in una certa qual misura su parametri appunto grafferchiani, oltre che moroderiani, legati appunto a quel tipo di percorso musicale. Beh, sicuramente invece delle dance, delle dance, danze, usando insomma la Z appunto. La C che diventa anglofona per dire da dance come genere musicale, così in termini anche generali, sui generis appunto. Allora a quel punto Kraftwerk, ma se invece vogliamo parlare di qualcosa che va a impattare e che diventa appunto storto e che evidentemente non può che andare verso un'alterità, sicuramente il lavoro di Moebius durante gli anni 70 è stato assolutamente fondamentale in questo senso, e forse anche di riferimento. Ma un altro di riferimento, tra l'altro, va anche a incrociare il lavoro certosino di Moebius, è quello di Konrad Schnitzler, che in questo caso andiamo a prendere con Wolf Sequenza, lavori degli anni 80, Consequenza 1 e 2, lavori splendidi, giocati appunto su un senso di tra una chiusura che in molti lavori tra l'altro di Schnitzler sembrerebbe adombrare lavori comunque sempre legati a una sorta di bizzarria cosmice. Tra l'altro Schnitzler lavora anche con Tangerine Dream del primo disco, quindi incrocia anche un altro degli eroi, potremmo dire, di quelle musiche delle elettroniche tutte, ovvero Klaus Schulze, che appunto dopo tributeremo dovutamente con il suo ultimo disco. Schnitzler sta dentro a cluster con la K, quindi quella veramente avventurosissime sperimentazioni elettroacustiche e dei cluster con la K, che poi appunto senza di lui diventeranno cluster con la C, dando appunto a quella metronomia magari più pulita, ecco, se con pulita si intende in soltanto i termini sonori, perché appunto prima dicevo quanto il lavoro di Moebius poi fosse storto e avesse appunto creato queste genie alternative rispetto appunto all'uso del ritmo. Schnitzler probabilmente dà quella caratteristica e quello scontro anche tra chiusura, cupezza e invece fuoriuscita, anche a volte così bizzarra, in termini anche così piuttosto ironici, ecco, che ci portano appunto a trovare anche è così un sì, beh, più che ironico, forse è proprio quasi sardonico a volte, con Slitzer, per lavori appunto che maneggiano anche materiale così piuttosto scottante. E andiamo appunto a trovarlo con Wolf Sequenza, altra sorta di così eminenza grigia che passava insomma dalle parti di Slitzer anni 80 per questo Consequence, che andiamo però a trarre dal primo lavoro e non dal secondo. Slitzer quindi è Wolf Sequenza con Consequence 1 e non 2, come dicevo prima. E chissà se con un po' di senso degli humor, che diventa appunto satira o addirittura appunto riso sardonico, o quello di Snitzer insieme a World of Sequenza, che abbiamo ascoltato appunto dal primo Consequence 1 con M5477, con un disegno così che ci porta verso bizzarrie ritmiche, ci ha portato verso bizzarrie ritmiche e poi verso così una forma forse scapica, chissà, o forse no, proprio nel senso che così trattando la materia erotica, erotic con una bella K, i nostri due forse volessero proprio invece negare quell'erotismo, giocando forse in una maniera così poco erotica, fin troppo scherzosa forse, o forse è un altro modo appunto di viversi la faccenda, e quindi diventa scapismo anche questo, e quindi da suoni cupi, profondi, poi invece una sorta di funk meccanico, robotico, ma anche appunto con tanto appunto di così disegno malignamente umano, tale da insomma come dire far saltare anche la macchina, e quindi forse farci uscire dalla stessa prigionia macchinica ritmica che invece abbiamo trovato appunto con il pezzo di prima M5477. Beh, forse Pirorator in questo senso, altro grande così outsider tedesco, anche lui dalla congiunzione tra cosmice e più che industrial, insomma noi Deutsche Welle, Wave in generale con Der Plan, poi dentro DAF e poi con lavori solisti veramente notevolissimi, molti poi con il suffisso Land, in questo caso appunto iniziava in Land nel 79, andiamo a prendere l'ultimissimo lavoro, è Mans Land, anzi per dirla meglio appunto alla tedesca maniera appunto, e ci andiamo appunto a ascoltare a trovare anche qua un disegno che può essere escapico, forse lo è, ritmicità che vanno a ricordare tante scatole forse che ci chiudono, e poi invece armonie che invece ci riportano dentro forse un viatico che può essere di fuga, con questo senso appunto anche angoscioso, se vogliamo, di questa domanda vi lascio appunto a Pirorator. è forse un disegno di fuga con Pirolator, l'abbiamo trovato una via di fuga, tra l'altro Pirolator che aveva collaborato anche con Aslitzer, quindi avete capito anche che in realtà c'era una linea collaborativa tra i vari tedeschi, appunto inseriti in questa 451 escapologia zero, e chissà, appunto zero forse in termini di numero, sicuramente uno dei disegni più lungimiranti, più veramente con una linea di fuga che addirittura va oltre così il momento terminale per antonomasia, ovvero la morte, quello post mortem, la pubblicazione di Deus Arrakis di Klaus Schulze, con tra l'altro l'ultimo pezzo, appunto gli ultimi minuti di questo splendido lavoro, ci portano veramente via molto molto anche lontani, però è una specie di così disegno compositivo sublime di Schulze, con tutto l'emozione insomma di questi lavori insomma che rilasciano e rilasceranno anche nel tempo, appunto quell'emotività appunto evidentemente universale, quindi in questo senso utilizziamo il termine cosmico che con Schulze va a, come dire, a braccetto. Max Macchia vi lascia e forse appunto così vi abbandona una sorta di escapismo, lo è stato. Ciao, alla prossima.